pagina 33 di G. Rosenberg ci è stata insegnata a pensare a comunicare in che modo? In modo da renderci adeguati alla struttura in cui poche persone dominano su tutte le altre. Sì. E a preoccuparci di quello che pensano queste persone di noi. Sì. Quindi, se usiamo i termini di Fromm, noi siamo abituati a avere continuamente un tribunale interno in cui risiedono delle autorità irrazionali, le quali però hanno l'abilità di farsi apparire autorità ragionevoli, perché se sapessimo che sono dei razionali le manderemmo via dai tribunali interiori. Invece nei nostri tribunali interni abitano persone irrazionali che mettono giudizi e sentenze del tutto ingiuste alle quali noi dobbiamo attenerci e che sono in grado di punirci, non solo dall'esterno, ma dall'interno. Questa è la cosa più seria. Quindi che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato a non stare più attenti ai nostri bisogni, a quello che per noi è importante, ma a soddisfare esigenze che non sono le nostre, ma sono le esigenze di qualcun altro che è riuscito a farci credere che quello che lui pensa sia ciò che è giusto, in assoluto, e anche per noi. Questa struttura, che è la struttura autoritaria, sia pure stata esaminata in tutti i modi possibili, dalla filosofia, dalla psicologia, è ancora adesso totalmente presente negli esseri umani, al punto che se tu chiedi a una persona ma qual è il tuo bisogno in questa situazione, non te lo sa dire. Sì. Ha imparato a mettere dei giudizi, delle diagnosi e delle etichette, che sono tutti modi per separare sé dagli altri, che è quello che gli è stato insegnato. E come dicevi tu prima, Joy, questo non è qualcosa che è accaduto 20 anni fa, è accaduto qualcosa che è accaduto da 10.000 anni, quindi è iscritto nella nostra pensiero-linguaggio, nei nostri geni ormai, cioè proprio è qualcosa che per liberarci ci vuole uno sforzo cosciente, un lungo lavoro. Ecco. Allora adesso vediamo, la pagina 36, il torto. Qualsiasi nostra parola, che implica che un'altra persona è in torto, quindi tu hai torto, ecco, è un'espressione tragica di un nostro bisogno, tragica, cioè sbagliata di un nostro bisogno. Cioè il voler combattere per dire tu hai torto, io invece ho ragione, è un modo del tutto disfunzionale di rapportarsi con degli esseri umani. Sì. Perché? Perché le persone non provano gioia nel contribuire, una persona a cui dico questo non proverà mai nessuna gioia nel contribuire al mio benessere. Se gli dico che è in torto, in qualche modo sto già puntando il dito e conseguentemente attivo dentro lui una ferita a cui potrà reagire o sottomettendosi suo malgrado o cercando comunque di reagire, ribellarsi e in ogni caso farmela pagare. Quindi, nei termini di Rosenberg, provoca un comportamento difensivo e una reazione aggressiva, evidente o nascosta. Dice che la prima volta che ha riflettuto a fondo su queste cose, insieme anche a Carl Rogers, che è uno dei fondatori di questa visione, si è reso conto che a lui, a Rosenberg, è stato insegnato a pensare in termini moralistici. E dietro c'è una teoria degli esseri umani, la convinzione che gli esseri umani siano fondamentalmente egoisti e malvagi. Guarda te, se nella filosofia questa non c'è, tutta la tradizione agostiniana, questi senso. L'io è assolutamente l'io è un essere, è qualcosa di disprezzabile. L'unica cosa da apprezzare è Dio, ma l'io è l'essere proprio no. Ecco. Questo fa sì che le persone odino se stesse per quello che hanno fatto e si devono rendere conto della loro malvagità perché pentirsi e poi modificare i comportamenti sbagliati. Ora, non si può negare che l'insegnamento religioso che abbiamo ricevuto è in questa direzione qui, non ci libera da questo. Beh, se nasciamo già col peccato originale, addirittura nasciamo col peccato originale, non ha fatto niente, siamo sempre a rischio di offendere Dio, di meritare le sue punizioni, quindi voglio dire, con tutto il rispetto che si può avere, però la religione a cui siamo stati educati è una religione che genera un tribunale interno delle persone. Lui dice: quando ho conseguito il mio dottorato in psicologia, ho fatto un balzo avanti notevole, perché ho imparato a insultare le persone in modo molto più sofisticato. Per esempio, ero in grado di abbassare il finestrino della macchina e gridare a qualcuno qualcosa come sociopatico. Questo è stato il progresso che ho fatto. Ora, dire alle persone quello che non va in loro non è efficace. È proprio qualcosa che non serve. Quello che serve è tutt'altro. È vedere le cose così come stanno, osservare. E Krishnamurti infatti disse che la più alta forma di intelligenza umana è l'abilità di osservare senza valutare. Abbiamo un tema che abbiamo già affrontato tante volte. Senza? Valutare. Valutare. Cioè, un conto è valutare e giudicare, un conto è discernere. Discernere, io vedo, c'è un tuo comportamento che è poco produttivo, che addirittura può danneggiarmi, ma non valuto nel senso che non giudico questo con malintenzionalità. Un esempio proprio con ti due, un frasi. Su due frasi. Allora, io parlo con te e tu mi interrompi in continuazione. Sì. Io sono infastidito da questo comportamento. Allora io potrei dentro di me dire: ma guarda che rompicapalle che questa persona non mi lascia finire una frase. Ecco. Ti darei un'etichetta, potrei dire che sei una persona maleducata o che sei una persona prepotente e così via. Ora, questa definizione aiuta in qualche modo la nostra relazione? Di sicuro no, perché è una forma di colpevolizzazione. Tu mi fai star male. Fai l'altro esempio? Come potrebbe essere invece? Arrivo qua, sono tutto entusiasta per qualcosa che mi è successo, tu mi dici: ah sì, ma che vuoi che sia? Ecco, e quindi mi smorzi l'entusiasmo. Sì. Allora, e io potrei dire: te sei veramente una persona priva di ogni cuore, cioè io avevo qualcosa che ci tenevo e te, guarda, me lo smolli tutto. Ti faccio sentire un brano musicale che io tengo tantissimo e dici: ma non mi sembra niente di che. Allora, sono esempi quotidiani dell'amore familiare che sì, ci contraddistingue, insomma, di cui siamo educati. Bene, tutte queste sono forme di violenza, che alla lunga poi sfociano in violenza fisica e poi sfociano nelle guerre. Cioè, piccole dosi, via via crescono e poi questo. Fa sì che non viviamo nell'intimità e non viviamo nell'amore, ma viviamo, e questa è tutta la tematica che ben sai noi affrontiamo nel libretto sulle barriere nella comunicazione, insomma. Questo è su di qualità inquinante. Allora, qui il contributo di Rosenberg è decisivo. Perché lui dice: attenzione, non formulare un giudizio vuol dire non dire tu sei una rompiballe, tu hai questo, anche dentro di sé, ma individuare qual è il comportamento con precisione, interrompere, smorzare. Ecco, sono comportamenti che non c'è un giudizio, no, dietro. Quindi come sarebbe la frase corretta, diciamo? Adesso ci arriviamo qui, ecco. A quella. La prima cosa è la mia percezione. Percepire, sì, che qui c'è qualcosa che non funziona nella relazione. Sì. E in primo luogo, la prima cosa che devo capire è che io ho un bisogno, per esempio, sì, un bisogno, per esempio, di armonia con te. Sì. E di poter parlare e di sentirmi ascoltato. Quello è il mio bisogno. Quindi non è il tuo comportamento in sé che genera la sofferenza in me, ma è che c'ho un bisogno. E questo bisogno è un fatto mio. Se io non ce l'avessi, questo bisogno, tu mi interrompi e io cosa me ne importa? Cioè, potrei anche essere uno che interrompe, non ce l'ha nemmeno qualcuno nemmeno. Invece, poi vediamo meglio dopo, il bisogno è il centro di tutto. Se io ho un bisogno di armonia e tu interrompi, questo non funziona. E quello lo vedi benissimo nella musica. Insomma, se noi vogliamo suonare insieme e tu non vai a tempo, io non posso suonare insieme a te. Naturalmente, se non ho bisogno di suonare insieme a te, questo non genera nemmeno nessun problema. Quindi certo, c'è il bisogno di suonare insieme che fa sì che questo tuo comportamento, sì, possa generare in me qualche problema. Quindi non c'è un causa-effetto diretto. In mezzo c'è il bisogno. Ecco. Allora, io potrei non aver bisogno di suonare con te. E se tu mi interrompi mentre suoniamo, mentre parliamo, potrei starmi del tutto tranquillo perché non c'ho questo bisogno, semplicemente faccio qualche altra cosa. O mi interrompi e non mi interessa. Quindi quello su cui insiste Rosenberg è che il centro di tutto è diventare consapevoli dei propri bisogni. Di solito noi non lo siamo. Siamo consapevoli delle etichette che diamo agli altri. E non siamo nemmeno consapevoli del comportamento preciso che l'altra persona fa, che fa sì che il nostro bisogno non venga soddisfatto. Ok. Partendo in questo modo, la nostra comunicazione è confusa. perché io tendo magari a colpevolizzarti e a dirti qualcosa che non va, a farti sentire male subito, perché colpevolizzare qualcuno non ha mai fatto sentire bene, e naturalmente questo produce in te una reazione simmetrica, per cui farai in modo a tua volta di restituirmi quello che io ti ho dato, cioè una piccola sofferenza farai in modo che anch'io possa inghiottire un boccone amaro. Allora, la prima cosa da fare quindi è diventare consapevoli dei comportamenti. E quindi, per esempio, interrompere è un comportamento, parlare senza sosta è un altro comportamento, non ascoltare è un altro comportamento. E questi sono comportamenti specifici che si possono delimitare bene, sì, e si possono definire con chiarezza. Ora, questa definizione ha molto a che fare con quello che succede quando noi impariamo la musica, impariamo uno sport. Un bravo maestro di musica non ci dice tu sei un lazzarone o tu sei pigro, ci dice quali punti noi stiamo sbagliando, quali sono le cose che non adoperiamo bene. Ecco, non facciamo un crescendo, non andiamo a tempo, non leghiamo una frase, non facciamo sentire il tema principale, insomma facciamo... Dice con precisione, i bravi maestri, poi ci sono quelli cattivi che non lo fanno, è lo stesso sugli sci. Un maestro di sci che ti dicesse, no, te sci con violenza, ma che vuol dire? Ti dovrà dire che porti il peso qui, cioè dovrà essere specifico nei comportamenti. Sì.